Questo è il caso dell'euro, ma non è il caso di tanti altri paesi. E fa una bella differenza se tu, come settore pubblico, vai sul mercato a chiedere finanziamenti aggiuntivi oltre le tasse, mantenendo però la tua sovranità monetaria con una banca centrale, che è quello che fanno gli Stati Uniti d'America, la Bank of England, il Giappone e tutti gli altri paesi tra virgolette concorrenti con l'Eurozona. Diverso è nel caso dell'Europa quando tu ti impedisci questo strumento. Dopodiché, diciamo almeno da Keynes in poi, oppure potremmo dire dopo la crisi del 29, se la vogliamo mettere sul piano della storia economica e non della storia del pensiero, è considerato normale che prevalentemente, anche se non solo, nei periodi di depressione e di recessione economica, ossia quando i privati spendono di meno, ed è questo il caso, perciò dico questa è una crisi da eccesso di debiti privati, è normale che quando succede questo lo Stato, il settore pubblico, interviene nell'attività economica per sostenere la piena occupazione anche al di là delle tasse, indebitandosi. Tutto questo è successo per 50 anni ed è normale. Quello che in questo momento sta succedendo è esattamente il contrario, ossia che con politiche totalmente anti-keynesiane, nel momento in cui lo Stato, il settore privato spende di meno, il settore pubblico fa lo stesso, spende di meno anche lui e dunque la recessione si avvita. Dopodiché poi il discorso, se vuoi, ancora più generale andrebbe posto sul piano della dinamica dell'accumulazione. È chiaro, non possiamo mettere troppa carne al fuoco, altrimenti diventa un dibattito lungo, però sullo sfondo c'è questo, che tutto si mantiene anche nel 29 e poi negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'accumulazione mondiale comunque è in crescita. In questo momento si parla di crisi strutturale, secondo alcuni sistemica, ma non starei a fare tante distinzioni in questo caso, proprio perché è la dinamica dell'accumulazione che nel nord del pianeta, cioè nelle aree ricche, è andata in crisi. Sta crescendo ed è una novità, per la prima volta dal 2002, sono 10 anni che crescono tutti i paesi poveri del mondo. Quello che però è finora evidente che la combinazione di questi due elementi, cioè la decrescita, la crisi dell'accumulazione al nord e la crescita invece al sud, messe insieme non danno un risultato positivo, perché è ancora talmente più forte e più ricco il nord che anche la crescita di paesi importanti come la Russia, la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica eccetera non riescono a sostenere l'accumulazione. Dunque io questo vedrei: il debito pubblico ha un ruolo quando l'accumulazione capitalistica comunque cresce, ha un ruolo diverso quando l'accumulazione è in crisi, e in più ha un ruolo quando mantieni la sovranità monetaria e ha un posto diverso quando questa sovranità monetaria non ce l'hai più. Posso dire la mia? Sì, vai Giorgio. Giorgio, ecco, sì. Ecco, perché la domanda è: perché fare debito pubblico quando si potrebbe fare inflazione, quando si potrebbe stampare moneta? Dunque, ricordiamoci che con la stampa di moneta si fa inflazione, eh? Ecco, comunque i lavoratori che vengono penalizzati dal debito pubblico che deve essere rimborsato vengono poi depenalizzati dall'inflazione con la perdita di potere d'acquisto. Ma se fosse questo, uno potrebbe dire: vabbè, visto che devo morire, moriamo di inflazione invece di morire di debito pubblico. Allora c'è invece un'altra cosa che non viene mai detta, che è una cosa quando c'è l'inflazione, l'opinione pubblica collettiva si sposta a sinistra. E quindi, perché lì dall'inflazione si esce soltanto con una sola soluzione collettiva. E a questo punto, ecco che tutte le volte che c'è stata una inflazione, il corpo elettorale si è spostato su posizioni più a sinistra che non a destra. Ecco perché bisogna scegliere la via del debito pubblico. Perché il debito pubblico? Anche qui, cioè, l'altra soluzione è mi indebito, ma perché? Cosa succede se mi indebito? Allora qua bisogna però ricordarsi una piccola cosa, che se c'è uno che si indebita c'è un altro che va a credito, eh? E infatti non a caso ho qua il capitale di Marx, nell'ultimo capitolo, sulla, nel penultimo, sull'accumulazione originaria, lui descrive, dice appunto che il debito pubblico nasce, è proprio all'origine della formazione del sistema capitalistico. L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi effettivamente in possesso collettivo dei popoli moderni è il loro debito pubblico. Di qui, con piena coerenza, viene la dottrina moderna che un popolo diventa tanto più ricco quanto più a fondo si indebita. Il problema è che c'è il creditore. Allora, il creditore cosa vuole? Il creditore ti chiede gli interessi, ecco lo spread. Però a questo punto il creditore giorno verrà che ti chiede la restituzione del debito. E a questo punto il popolo, che si credeva ricco, bene, deve rimborsare il debito, a meno che non gli venga rinnovato. Se gli viene rinnovato continua a pagare gli interessi, va avanti ad infinito. Se invece dice no, adesso me lo paghi perché io non te lo rinnovo, ecco il problema nostro, il rischio che non riusciamo a rinnovare il nostro debito pubblico quando va a scadenza, bisogna pagarlo. Allora per pagarlo, chi è che lo paga? Non certamente lo Stato stampando moneta, perché non glielo piglierebbe nessuno, questa moneta svalutata. Deve tassare i cittadini. Come si chiude il debito pubblico? Si chiude con l'imposizione fiscale, per cui le alternative sono due: o inflazione, o carta moneta uguale inflazione, o debito pubblico uguale tassazione. Cosa succede? Che appunto dal punto di vista del comportamento elettorale è stato dimostrato che quando c'è l'inflazione l'elettorato si sposta a sinistra, quando c'è la deflazione, la tassazione, l'elettorato si sposta a destra. Perché? Perché mentre dall'inflazione, che è universale, colpisce tutti e bisogna muoversi in forma collettiva, davanti alla tassazione io mi muovo singolarmente, perché io posso pensare di essere quello che a me la tassazione poi non mi arriva. E a questo punto, per questo che i governi conservatori gli piace più il debito che non la carta moneta, perché provoca un comportamento di massa a destra. Non a caso, quello che si sta verificando in Grecia non è tanto la vittoria di Syriza, ma l'affermazione, la comparsa di Alba Dorata, che è il piccolo sintomo, un piccolo sintomo di cui però abbiamo già una manifestazione un po' più grossa in Ungheria. In Ungheria ci sono delle cose, cominciamo a vedere quella svolta deflattiva. Questo bisogna chiarirci una cosa: Hitler non è venuto fuori dalla inflazione tedesca, che era finita nel 1923. Nel 1923 Hitler tenta un golpe e finisce in galera. Hitler vince nel 1933, dopo che la politica del governo Brüning, politica deflattiva, di tassazione, di austerità diremmo oggi, ha portato alla deflazione, da cui l'opinione pubblica risponde votando il Partito Nazional Socialista. Ricordiamoci che si chiamava Partito Nazional Socialista. Socialista nelle intenzioni. Dobbiamo difendere i poveri, i cittadini che sono troppo munti, troppo compressi da queste politiche aggressive che soprattutto vengono dall'esterno. Già da allora le riparazioni di guerra. Due, nazionale, perché noi ci poniamo contro il diktat delle potenze vincitrici. Non a caso si ricorda la frase di Hitler, che poi una delle tante che gli ha fatto poi guadagnare il consenso elettorale: i trattati, compreso quello di Versailles, sono pezzi di carta e si possono stracciare. Ma perché devo obbedire a degli ordini che mi vengono da, che so, dalla Merkel, da quanti altri? Bisogna contrattare, non bisogna fare come dice Monti, noi onoreremo, anzi la Merkel ce l'ha detto, voi onorerete il vostro debito. No, perché io da buon cristiano, tutte le volte che recito il Padre Nostro, dico rimetti a noi i nostri debiti, perché noi li abbiamo rimessi e non onorati ai nostri debitori. I cristiani devono capire che il debito non si paga e si minaccia di non pagarla. Ed è l'unica maniera, perché i creditori, che sono quelli che stanno massacrando l'Europa, paghino loro la crisi che loro hanno provocato. Io vorrei ritornare ad una questione, insomma, so che mi sentite tutte e due, però ecco, poi magari sta risposta me la dà Giorgio. vorrei ritornare ad una questione che avete sollevato. Mentre è chiarissimo che l'attacco da parte dei mercati in termini speculativi sugli stati e sulle monete europee fa sì che loro traggano comunque dei vantaggi, quello che adesso noi vorremmo un po' cercare di dipanare, di capire meglio, se la Germania sarà sottoposta a un bombardamento a tappeto da parte dei mercati e dell'euro nei termini che diceva Giorgio e che anche tu, Maurizio, accennavi, ma qual è il vantaggio della Germania di non cambiare la politica economica e finanziaria dell'Europa? Perché pervicacemente rimane abbarbicata ad una concezione privatistica della Banca Centrale Europea e non vuol cambiare lo statuto? E qui viene anche il discorso che faceva prima Roberto, cioè perché la Banca Centrale non diventa ultimo pagatore degli stati più che delle banche europee? Perché non si cambia una politica economica, la politica di investimenti, non si lascia perdere, diciamo, questa politica di rigore ad oltranza? La Germania in questo senso, se sarà sottoposta nel breve e medio periodo ad un bombardamento economico e finanziario del tipo che voi dicevate, che vantaggio ha, diciamo, a mantenere queste posizioni? Giorgio? Parlo io? Sì, vai Giorgio e poi rinanciamo a Maurizio. Ecco, dopo. No, ecco, perché in questa, comunque si muove, lei ci rimette, perché se a un certo punto lei accetta, dunque intanto lo statuto della Banca Centrale Europea non consente di dare soldi allo Stato e non consente di pensare allo sviluppo, deve soltanto controllare il livello la stabilità dei prezzi. È stata costruita così e non ci sono i tempi né le volontà per cambiarlo. La Banca Centrale Europea non può che comportarsi così come si comporta. Uno. Due, a questo punto quindi quella soluzione lì non c'è. Va bene. Comunque, se ci fosse, se la Banca Centrale Europea facesse, che so, appunto, un quantitative easing, come ha fatto la Federal Reserve, che ha uno statuto differente, perché noi copiamo sempre in peggio, naturalmente, quando si parla che vogliamo fare come gli americani, prendiamo le cose peggiori, le cose buone non le prendiamo, naturalmente, questo vale anche per l'Italia. Bene, se facesse un quantitative easing, cioè buttasse carta moneta, come si diceva anche prima, bene, ci sarebbe una inflazione e ci sarebbe una perdita di valore del dollaro, dell'euro rispetto al dollaro. E quindi, Rubini l'ha già consigliato, dice, gente, europei, avete una soluzione, svalutate l'euro e portatelo al rapporto 1-1, dopodiché siete a posto, nessuno vi rompe più le scatole. Ma questo significherebbe però che tutti i detentori di titoli in euro si troverebbero deprezzati, il valore è deprezzato perché avrebbe un valore minore, e quindi si troverebbero molte banche private allo scoperto, quindi uno. Due, l'altra, quindi, quella è una soluzione che non gli conviene, non è opportuna. La seconda soluzione che cos'è? È cercare di massacrare quanto più può i paesi, la Germania, i paesi latini, cercando di farli pagare nel più breve tempo possibile il loro debito, in modo che i titoli che loro hanno in pancia da parte dei paesi maiali vengano rimborsati, ricevano della moneta e restituiscano il loro debito a noi, che non ricompreranno più. Bene, il problema è tutto molto semplice, quello che la vedo io, è una questione di tempi. Perché loro devono fare adesso? Perché questa stretta? Perché a novembre ci sono le elezioni americane e a questo punto, se mai rivincesse Obama, e Obama adesso è un po' impedito, se mai rivincesse Obama, i conti con la Germania si fanno brutti e loro lo sanno, per quello che devono fare da adesso a ottobre, va bene, dovrebbero costringere, ecco Monti, quando Schäuble ha detto è l'uomo giusto al posto giusto, perché onoreremo il debito, perché noi non siamo dei puffaroli, noi i debiti li paghiamo, anche a costo di tirare la cinghia allo spasimo, anche a costo di vendere i gioielli della corona. Tenete presente che alla Banca Centrale Europea c'è un signor Draghi che nel 1992 era sullo yacht Britannia quando si decise, è stato 92, la privatizzazione delle banche di interesse nazionale, vendute agli grandi investitori anglosassoni allora. Bene, il problema è che i tempi sono molto stretti, perché vi leggo soltanto tre cose, dopodiché chiudo. Per me, ecco, per quello come la vedo io, vedo proprio un momento di stretta. La Germania, appunto, no, l'ha detto Obama il 7 giugno, se la Merkel non cede, sto leggendo da un articolo di giornale, se la Merkel non cede va messa con le spalle al muro. Dopodiché a far cosa, ma come la metti con le spalle al muro? Bene, ci ha pensato George Soros, il grande speculatore, quello che nel 92 ha sbattuto fuori dallo SME, allora c'era il serpente, il sistema monetario europeo, ha sbattuto fuori dallo SME non tanto la lira, ma la sterlina, che si era avvicinata troppo alle monete europee. Soros è un finanziere americano che ha detto: adesso sbatto fuori la sterlina dallo sistema monetario europeo e così l'avverto che non ci ritorni mai più dentro, perché sennò rifacciamo lo stesso. Bene, per dire il personaggio, ecco, la potenza del personaggio che ha detto: il sistema bacato di Berlino sta uccidendo l'Unione. Abbiamo 3 mesi di tempo. Cioè, cosa ha detto Soros? Vi diamo 3 mesi, giugno, luglio ed agosto. Ad agosto saltiamo. Ad agosto saltano alla gola dell'euro tedesco. In che modo? Molto semplice, quello che hanno fatto con la Grecia, che hanno fatto con la Spagna, che hanno fatto con l'Italia, che hanno fatto anche con la Francia. Le agenzie di rating declassano i bund tedeschi, la portano a 2A. A questo punto rimane alla Germania una sola soluzione, che, ecco, tanto per dire come i giornali sono vigliacchi. Berlusconi, quando ha fatto quella favola pazza idea, in realtà di pazza idea ne ha tirate fuori 3, non una. Hanno preso l'ultima per ridicolizzarlo, quello la ricordiamo tutti, ho una pazza idea, cominciamo a stampare l'euro con la nostra zecca, che naturalmente è impensabile perché la sovranità monetaria noi l'abbiamo ceduta alla Banca Centrale Europea, dove comunque c'è un italiano, ma non vale niente che sia un italiano, perché ci sono delle regole che scavalcano la nazionalità. Ma lui, se uno si va a leggere tutto l'articolo, aveva detto 2 cose molto importanti. Se l'Europa non dovesse ascoltare le nostre richieste, leggi, se la Germania non dovesse ascoltare le nostre richieste, tutto si gioca il 29 di giugno, mi pare quella data lì, è quando ci si vede, è lì che ci si gioca la partita, eh? E cosa ha detto Berlusconi? Noi dovremmo dire ciao ciao e uscire dall'euro, Berlusconi, e se non ci ascoltano dovremmo dire alla Germania di uscire lei dall'euro. La soluzione è molto semplice: o ci ascoltano e la Germania spende un casino di soldi per salvare l'euro su cui ha campato fino adesso. Avevo la notizia, mi pare che ci sono 500, una cifra esorbitante quello che costerebbe il salvataggio dell'Italia. Bene, oppure noi usciamo, noi, la Spagna e la Grecia fuori dall'euro, oppure ancora meglio, la Germania se ne va. Dunque, quest'idea che la Germania, che sia lei ad uscire dall'euro e non noi, per mantenere la AAA, perché senza la zavorra dei paesi maiali, il debito pubblico tedesco riceverebbe una sforbiciata, ma poi terrebbe, sarebbe a AAA, perché un euro dimezzato, o meglio, come lo chiamano, l'euro del nord, o come l'hanno detto, il neuro, sarebbe fortissimo e si rivaluterebbe. Quindi la prospettiva potrebbe essere qua, che ad agosto assalto dei mercati, dopodiché le soluzioni sono due: o i paesi maiali abbandonano l'euro in massa, oppure ci molla la Germania. Da quello che so, ecco, però non so verificare, circolano voci che ci siano delle videate su YouTube dei zecche cinesi che stanno stampando i nuovi euro tedeschi. Passiamo la parola a Maurizio. Vai, Maurizio. Ma anche su questo devo dire che le mie valutazioni sono identiche a quelle di Giorgio Gattei. Credo che la prospettiva, una delle possibilità oggi, sia proprio quella di creare due aree valutarie all'interno dell'Europa, il che significa una soluzione intermedia e molto diversa fra il ritorno alle valute nazionali, che sarebbe pesantissimo per i paesi del sud dell'Europa e probabilmente molto difficile da realizzare, e invece una nuova condizione in cui i paesi del nord dell'Europa, con un euro ancora più forte, riescono a reggere all'attacco speculativo che, anche secondo me, ma non è che ci sarà nei prossimi mesi, è cominciato, cioè da una settimana i rendimenti sui buoni tedeschi stanno crescendo tant'è che io consiglierei da questa settimana in poi di non guardare più allo spread tra titoli italiani e quelli tedeschi, ma di guardare al valore assoluto dei rendimenti, che ridiventa un indicatore più interessante. Credo che ci stiano pensando sopra in parecchi, tra l'altro anche, come dire, nella comunità degli economisti questa cosa è proposta, penso a Bruno Amoroso che lo ha detto recentemente, penso anche alle proposte che da alcune settimane, da alcuni mesi fa Luciano Vassabollo in merito ad una moneta, ad un'area valutaria euro-mediterranea, no? a quella che credo abbia chiamato Alba, se non sbaglio. È una prospettiva interessante, però naturalmente un conto è discuterne così, diciamo, in maniera appassionata, critica, con gli elementi che abbiamo da una radio italiana, un conto è poi vedere in concreto, perché ancora una volta ha ragione Giorgio, la questione dei tempi è essenziale, perché un conto è una uscita ordinata dall'eurozona o dell'eurozona, un conto è se comincia la fuga dagli sportelli, cioè c'è una scena che non si vede ancora in TV, e non so se non si vede perché non la facciano vedere o perché non si è ancora realizzata, ma se io dovessi dire qual è l'immagine della crisi finanziaria da panico, è una fila di persone fuori una banca di una grossa capitale europea. Ecco, se comincia il bank run, come lo chiamano, cioè se la gente comincia a ritirare disordinatamente i propri euro dagli sportelli europei, poi diventerà difficile. Come in Argentina, insomma. Sì, qualcosa del genere, anche perché poi il passaggio immediatamente precedente, diciamo così un venerdì notte magari, dovrebbe essere l'esercito in piazza per evitare che questo diventi fonte di tensione. Quindi mentre molti rimproverano la Germania dicendo ma perché la Merkel non lo fa, perché non lo fa, che era poi una parte della vostra domanda, beh, da un lato anche la Merkel è in campagna elettorale più o meno, come Obama. D'altro canto c'è una piccola differenza fra gli Stati Uniti d'America e la Germania, che gli americani mi risulta che abbiano ancora delle basi in Germania e non il reciproco. Senti, allora io volevo fare una domanda prima a Maurizio e poi a Giorgio, visto che andiamo insomma così anche per questioni tecniche, era questa, insomma cerchiamo adesso di affrontare un po' la questione interna all'Italia, no? Insomma tutto questo gioco al massacro alla fine, come si diceva prima, insomma va al massacro naturalmente della classe insomma più debole in Italia, i lavoratori, i precari, i disoccupati, insomma chi paga poi appunto le tasse per cercare di annullare questo debito, e insomma i dati sulla diseguaglianza nazionale, insomma dei redditi eccetera, parlano chiaro, insomma la forbice continua ad aumentare fra i più ricchi e i più poveri, cioè fra i più ricchi e i più poveri, però senza che questo significa né redistribuzione, appunto perché aumenta la forbice, senza che questo significhi reinvestimento in attività produttive, perché insomma la domanda mia è questa, insomma la per continuare, ma la faccio in maniera anche semplice per farmi capire, insomma per continuare a pagare queste tasse serve una produttività reale che in Italia manca, cioè la borsa poi naturalmente ha un fondo e il fondo del barile non si può raschiare all'infinito, insomma manca in Italia naturalmente una produttività reale che riesca a mantenere almeno il livello dei consumi tale che i lavoratori possano continuare ad essere massacrati, cioè insomma anche la strategia che ha in mente Monti, insomma che riprende da quello che dicevamo essere questo gioco internazionale, questa guerra internazionale, sembra comunque essere un gioco finito, insomma un gioco temporalmente finito anche per quello che riguarda la questione dei consumi in Italia. È vero che l'Italia rispetto alla Spagna ha un sistema creditizio e bancario un po' più solido, però è anche vero che comunque ha un sistema di risparmio più solido in mano ai cittadini, però è anche vero che questo risparmio qua comincia anche a finire, insomma cominciamo a vedere già i primi sintomi di questo, e comunque in una prospettiva, non dico di lungo termine, ma di medio termine, se la produttività è a questi livelli e continua ad essere a questi livelli, visto che non si vede nulla all'orizzonte per una ripresa economica, insomma questo gioco al massacro finirà prima di quanto si pensi, o mi sbaglio, Maurizio? Guarda, io continuo a pensare che i tre problemi sociali implicati dalle dinamiche economiche di cui stiamo parlando in Italia siano riassumibili così: i ragazzi stanno senza lavoro, confermo, troppi ragazzi da troppo tempo, chi lavora vede aumentare lo sfruttamento in maniera bestiale, e penso all'estensione enorme del precariato e anche a operai che precari ancora non sono, ma che per mantenere il posto di lavoro, parlavo ieri sera con un compagno operaio della FIOM che ha detto che oramai è costretto a lavorare nei fatti anche il sabato per fare in modo che la propria azienda che produce arredi per ufficio non chiuda, e la condizione dei lavoratori è diventata terribile. In più abbiamo un territorio disgregato dal punto di vista idrogeologico. Ora, una sinistra, un movimento di classe che si rispetti nei confronti di quello che sta facendo in questi giorni il governo, cioè un tentativo di dismissione del patrimonio pubblico sotto forma di patrimonio immobiliare e di quote di imprese, che potrebbe valere, secondo quanto dicono, fino a 400-500 miliardi, io credo che il punto fondamentale sia per che cosa lo vuoi utilizzare. E allora torniamo al discorso di Giorgio: se lo fai per ripagare il debito, la risposta è no, ma se tu utilizzi risorse per dare lavoro pubblico ai ragazzi, per risistemare il territorio e l'ambiente idrogeologico italiano, allora puoi tentare di fare almeno un passo verso quella che mi sembra la direzione che dovrebbe essere quella della occupazione, e della occupazione in beni pubblici per un paese come il nostro. E vai, sì, ok Giorgio, vai. Senti Giorgio, no, volevo farti una... Dunque, se è vero, tu accennavi a Soros prima, no? Che ha dato 3 mesi di tempo all'Europa, ma sostanzialmente alla Germania, per risollevare, diciamo, l'euro, per salvarlo. La stessa cosa la dice la Madame Lagarde, che è presidente del Fondo Monetario Internazionale. Madame Lagarde a chi si rivolge, diciamo, in questo senso? Cioè, gli stessi interlocutori, gli stessi destinatari di Soros, oppure va anche oltre? Ma se è vero che io torno su questo punto, ma se è vero che la Germania, per preservare i suoi interessi in questi 3 mesi, cioè nel corso di quest'estate, attenderà o l'implosione dei paesi satelliti e dei paesi del Mediterraneo, in maniera tale da dichiarare morto l'euro, o se motu proprio di sua spontanea volontà, per salvare i suoi interessi, a un certo punto decide di far morire l'euro e fare ritornare al marco, fare l'euro del nord. Ecco, nel frattempo qui in Italia, tanto per riallacciarmi anche alle cose che diceva adesso Dario, queste ipotesi che sollevano alcuni economisti, non ultimo per esempio Savona, che non è un feroce bolscevico ma è stato ministro di questa Repubblica, è stato alto dirigente della Banca d'Italia, quando dice che noi ci dobbiamo predisporre a un piano B di fuoriuscita dall'euro, è una questione realistica che secondo voi stanno sotterraneamente attuando, e quanto converrebbe alla fine all'Italia, diciamo, un'ipotesi di questo tipo? Ci sei? Pronto Giorgio? Ah no, niente, è caduta la linea. È caduta la linea. Allora, proviamo a richiamare Giorgio. Intanto, non so. Maurizio, sì, va bene, sì, io ci sono, guarda. Hai sentito Maurizio? Sì, ho sentito. Guarda, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, C'è da dire che questa istituzione da alcuni anni a questa parte, ossia da quando i paesi sia dell'America Latina sia dell'Asia che cercano uno sviluppo autonomo e indipendente dentro il capitalismo, ma autonomo, hanno rifiutato di farsi continuare a strozzare dal Fondo Monetario, bene, questa istituzione ha un problema che non può sopravvivere se non trova qualcuno a cui prestare denaro, per cui continuamente la signora Lagarde cerca, e devo dire che l'ultima occasione, e credo non sia un caso che sia stata l'ultima uscita di Berlusconi, quando l'ex Presidente del Consiglio rifiutò, secondo me dignitosamente per una volta, di cedere ai ricatti del Fondo Monetario. Quindi io credo che il Fondo Monetario è alla ricerca comunque di qualche paese da, tra virgolette, salvare, ossia da strozzare. Per quanto riguarda il piano B, beh, anch'io credo, come il professor Savona, che cioè spero che la Banca d'Italia abbia un piano B. Però alla tua domanda, ci conviene o non ci conviene? Secondo me non conviene essere cacciati dall'euro, non conviene ritornare da soli alla valuta nazionale, perché significherebbe per alcuni anni pagare un prezzo pesante per quanto riguarda sia il costo del finanziamento con una lira indubbiamente svalutata, e non credo che il recupero di competitività basti a compensare questo svantaggio. Diverso sarebbe quello che io invece auspico, che tutti i paesi dell'area mediterranea dell'Europa insieme concertassero un piano di rientro soprattutto della quota eccedente il 60% e avviassero una trattativa, perché diciamocelo, tutto quello di cui stiamo parlando, mercati, debito, mercato, è comunque un elemento di contrattazione possibile. Allora, se tu fai un discorso internazionale con il Club di Parigi, cioè con il Club dei creditori, e contratti condizioni di rientro collettive per molti paesi, secondo me questo ti darebbe molta più forza, e a questo punto sarebbe anche un elemento in più per resistere alle resistenze, scusate il gioco di parole, della Germania. Nel frattempo spero che Giorgio sia tornato tra noi. No. Cercando di riprendere l'interlocuzione, i compagni stanno affannandosi al telefono, operando. Però... se ci riusciamo è necessario che ci riusciamo, perché la domanda che avevo fatto iniziale io, volevo capire tutto quello che è stato descritto fino adesso e la voragine che ha visto Monti che si allarga, cioè questa è la voragine, sì, che ci sta inghiottendo, ma sì, finimo prima di entrare la voragine o ci salviamo, insomma, capito? Quello è il discorso. Beh, è chiaro che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, però devo dire che per una volta l'espressione colorata e colorita che ha usato è autentica, insomma, credo sia un buon modo di raccontare. Noi ci allontaniamo dal baratro e il baratro si avvicina, si allarga. Significa questo che l'attacco è all'euro, l'attacco è all'Europa, e dunque non ne riuscirà indenne nemmeno la Germania. Credo che questo volesse dire Monti, e credo che lo volesse dire soprattutto ai suoi amici tedeschi, perché anche se di poco, però 1,25, 1,30, 1,40, 1,55 anche i rendimenti tedeschi, insomma è cominciata quella che diceva Giorgio sarà probabilmente il leitmotiv di questa estate, cioè una pressione molto forte sulla Germania. Che ecco, sta allora ripristinando Maurizio anche il bene, collegamento bene, con Giorgio. E allora lo ascolto. Avremo un'estate bollente anche per i tedeschi. Penso di sì. Krauti, parli di com'è? Ah, no, perché ho perso l'intervento di Serafino. Ecco, di Maurizio. Ecco. Sì, e beh, certo, i tedeschi sono preoccupatissimi e sono incastrati, io vedo difficile, come ho già detto, difficile soluzione per loro, se non quella di prepararsi ad un'uscita dall'euro. Io la vedo, volendo fare un'analogia, siamo all'8 settembre del 43, dove Monti non fa altro che la parte, gioca la parte di Badoglio, cioè quello che va a culo con tutti, per essere chiari, e cerca semplicemente di far passare la nottata. Arriverà il 25 aprile, però ricordiamoci che tra l'8 settembre 43 e il 25 aprile 45 c'è stato il 44, e il 1944 l'ha fatto molti, molti, molti danni. Pronto? Sì, no, io guarda, visto che è caduta una linea quando avevo riproposto un po' la domanda sulla tenuta del sistema interno italiano rispetto anche alla strategia che la borghesia imperialista, insomma, perché questo è il termine adatto, sta mettendo in atto anche in Italia, cioè se il sistema di risparmio italiano, ma soprattutto la produttività reale che l'Italia può continuare a mantenere in piedi, riesce a comunque a fare il gioco che Monti si aspetta oppure no, oppure comunque questa cosa imploderà prima, era questa la domanda in estrema sintesi. Sì, no, io dubito che l'Italia ce la faccia, perché i tempi sono stretti e aumentare la produzione si può sempre, basta aumentare le ore di lavoro. Aumentare la produttività significa riorganizzare integralmente il sistema produttivo italiano, che ha mostrato finalmente di essere fallimentare, quello che Jacquet ha chiamato il nanocapitalismo, ormai è ridotto all'osso. Bene, bisogna distruggere l'idea del piccolo e bello e costringere le imprese ad accorparsi, a selezionarsi, a fare investimenti in tecnologia, senza però che le banche, che sono in una crisi in una trappola della liquidità, gli diano soldi. Io vedo per il sistema industriale italiano, per un imprenditore italiano, vedo 5 soluzioni oggi attualmente. Le banche non gli danno credito se non è più che solvibile, se ha un minimo di difficoltà. La prima soluzione è quella che lui prenda i soldi di famiglia e le investa finalmente nella sua impresa, perché è comodo fare gli imprenditori con i soldi degli altri. La seconda soluzione, se non intende fare questo, investire, casomai ritirare e riportare in Italia i soldi che ha messo fuori, casomai a fare attività speculative e reinvestire nella sua impresa, la soluzione è quella di chiudere la sua impresa e mettersi a fare il rentier, il redditiero pensionato, perché così come ci sono i pensionati lavoratori, ci sono anche i pensionati imprenditori, con la differenza che nei pensionati imprenditori non ci sono gli esodati, l'unica differenza. La terza soluzione che gli può avere è che non vuole portare i suoi capitali, i capitali, chiamiamoli risparmi, che ha all'estero, in patria, e non vuole nemmeno chiudere la sua impresa, e allora deve ricorrere a dei canali illegittimi di finanziamento, affidarsi, mettersi nelle mani dell'usura, quello che sta già succedendo. Quindi a questo punto, mettendosi nelle mani dell'usura, o ce la fa a reggere o si arriva all'ultima soluzione, che perderà i soldi, perderà la sua impresa strangolata dall'usura, perderà il suo patrimonio strangolato dall'usura, e gli resterà solo una soluzione, che è quella che stanno praticando a livello percentualmente di massa, cioè suicidarsi, perché abbiamo una classe imprenditoriale che merita solo di togliersi dai piedi, e prima lo fa meglio sarà per tutti. Naturalmente questo significa che verranno coinvolti anche i lavoratori. E beh certo, è come il terremoto, quando la terra scuote, e beh c'è qualcuno che ci rimane sotto. Però ecco che non mi vengono a dire, non mi chiedano a me di elogiarli in quanto imprenditori cialtroni, che fino adesso sono andati avanti con la piccola impresa, il plus valore assoluto, per dirla con Marx, e i soldi delle banche. Questa è la mia situazione. Mi pare che il povero Monti l'hanno messo lì anche per invertire questa tendenza. Ecco, e ci sta provando, poveretto, ci sta provando. Non ce la farà, ecco, la mia cosa non ce la farà, avremo una situazione di disperazione. Dunque, tanto per dare l'idea, perché bisogna avere le idee chiare, dunque adesso deve scattare, fortunatamente non è stato ancora ratificato dal Parlamento, il Fiscal Compact che Monti ha firmato il 3 di marzo, ha firmato il Fiscal Compact, che significa che il bilancio dello Stato deve finire in pareggio, uno, e due, che il debito pubblico va ridimensionato, portato da 120% del PIL al 60% del PIL in 5 anni. Obbligatorio. E Monti ha firmato che ciò avrebbe fatto, e lui onora i suoi impegni. Bene, a questo punto è stato calcolato che questo significa 40, minimo 40 miliardi di debito pubblico che devono essere imputati per 5 anni al bilancio dello Stato come punto di partenza. Immaginate fare un campionato di calcio partendo con un handicap. Bene, 40 miliardi. C'è stato su La Voce Info, non sui siti di estrema sinistra, La Voce Info, c'è stato uno che ha fatto un piccolo calcolo, dice: ma se parte il fiscal compact, premetto, il fiscal compact non è stato ancora ratificato dal Parlamento, Monti si era impegnato presso la Merkel che l'avrebbe fatto approvare entro il 29 di giugno, non ce l'ha fatta perché PDL e PD hanno detto che è meglio aspettare e andare a vederci un po' meglio. Bene, forse neanche la Merkel riuscirà a farlo approvare, data il fiscal compact in Germania, data l'opposizione dell'SPD, ma guardiamo per i fatti nostri. Può darsi che il fiscal compact, fino ad ora il fiscal compact non è in vigore. Qualora entrasse in vigore, vi dicevo, questo sulla Voce Info, c'è stato questo economista che ha fatto i conti di cosa succederebbe al PIL, al nostro PIL, che è già in difficoltà, se ci fosse l'esborso obbligatorio, il rimborso, la riduzione obbligatoria del debito pubblico. In questo anno il PIL calerebbe del meno 5%, il prossimo anno calerebbe di meno 4%. Avremmo in 2 anni un calo del PIL che rasenta il 10%. Non è sbagliata la cifra, non è fuori dalle valutazioni la cifra, perché la Grecia, che sono 3 anni che è messa nel tritacarne teutonico, in 3 anni ha fatto meno 20% del PIL. Grazie al fiscal compact l'Italia potrebbe fare in 2 anni meno 10% del PIL. Ci condonano anche qualche cosa. Questa è come la vedo io. Senti, una cosa vale per tutte e due, anche perché andiamo verso a chiudere, no? Pure questa consulenza, diciamo, questo aiuto da professori, non da tecnici, in quanto i tecnici fanno i disastri che abbiamo descritto, voi fate cultura economica, secondo me, no? Io volevo domandare questa cosa: quanto influisce questo discorso che tutto i media mondiali stanno puntando sui risultati elettorali della Grecia, cioè questo fatto di Syriza che dice: se vinco io rivedo i patti a zero e ricominciamo da capo, e se invece il centrodestra dice eventualmente contrattiamo, c'è sta cosa. Se vince Syriza aiuta a poter stimolare quel discorso di andare a battere i pugni dove si devono battere, oppure accelera quella voragine che avete descritto voi che si sta aprendo sotto i piedi di Monti? Pronto? Giorgio. Sì. Pronto, eh? Pronto? Rispondi tu, Giorgio, mi senti? Sì, sì, ti sento. Vai. Certo che se vince Syriza è una bella sberla per la Germania. Sicuramente la Grecia non esce dall'euro, però bisogna che la Germania gli venga incontro molto, molto, molto. Ma il problema è che a questo punto i mercati, se la Grecia viene salvata, i mercati vogliono vedere del sangue. Se non c'è il sangue della Grecia, sarà il sangue di qualcun altro, perché i mercati devono aggredire la Germania, e la Germania può fare di più il possibile per salvare la Grecia, per salvare il sistema che ha creato e che gli sta saltando per aria. Bene, ma i mercati non si accontentano. I mercati vogliono vedere il sangue tedesco che deve scorrere, e quindi bisognerà aspettare il bombardamento di Berlino. Quindi loro possono anche guadagnare soltanto del tempo. Io ho questa, proprio io ho questa previsione. Ad agosto bisogna leggere, di solito gli attacchi, le cose grosse succedono in agosto, quando la gente è in vacanza, è meno attenta alle cose, le reazioni sono più lente. Ecco, comunque vada a finire, si aprirà una trattativa con Syriza, se vince, bisogna vedere poi dopo se la Merkel ha fatto la campagna elettorale per Nuova Democrazia, sfacciatamente, qualcuno ha scritto ingerenza nelle scelte elettorali di uno Stato, e di uno Stato... La linea, un'altra volta purtroppo abbiamo dei problemi tecnici oggi. Vabbè, però posso continuare io? Tanto sì, sì, vai Maurizio. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Io credo che anche se vinca Nuova Democrazia, il problema sarà quello di andare ad una trattativa, nonostante le differenze pesanti anche con cui hanno condotto la campagna elettorale. È nell'interesse nazionale dei greci arrivare ad una contrattazione con l'Unione Europea che potrà dare risultati più o meno significativi a seconda di chi dei due vince, ma non credo che le cose cambierebbero di molto se vincesse Nuova Democrazia, perché lo sanno benissimo che il popolo greco è stato portato alla rovina dall'applicazione del fiscal compact e comunque ci sarà bisogno di ricontrattare le condizioni del rientro dal debito della Grecia, che ricordiamolo è poca cosa, cioè questa crisi è stata gestita in maniera pessima dall'Unione Europea, perché avrebbero potuto la Germania e la Banca Centrale Europea risolvere il problema appena si era presentato, però ovviamente siccome sembra scritto che la cosa debba andare in un certo modo, probabilmente assisteremo ad un peggioramento delle condizioni in entrambi i casi. Dal punto di vista politico generale però cambia, e io spero che vinca Syriza, di modo che c'è la dimostrazione che le persone non condividono quella che è l'impostazione dell'austerity dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea e della Germania.